Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Ciao, io sono Maurizio Mosetti e questo è Giro di Re. Si tratta di fiabe e leggende della tradizione popolare italiana. Racconti di giovani immortali, zappatori musicisti, barbieri, orologiai, figlie da maritare, re, principi, bambini, ragni e sarcicce. Sono storie di ieri, di oggi e per sempre. Buon ascolto. Cecino. Una donna un giorno stava cuocendo i ceci. Passò una povera e ne chiese una scodella in elemosina. «No, se li do a voi non li mangio io», disse la donna. La povera allora le gridò contro. «Che tutti i ceci nella pentola vi diventino figli!» E se ne andò. Il fuoco si spense e dalla pentola saltarono fuori 100 bambini, piccoli come ceci, e cominciarono a gridare. «Mamma, ho fame! Mamma, ho sete! Mamma, prendimi in braccio!» E a spargersi dappertutto, nei cassetti, sui fornelli, sul pavimento. La donna, spaventata, comincia a prendere questi esserini, a ficcarli nel mortaio e a schiacciarli col pestello come per farne la purea di ceci. Quando credette di averli ammazzati tutti, si mise a preparare da mangiare per il marito. Ma, ripensando a quel che aveva fatto, si mise a piangere. «Oh, ne avessi lasciato in vita almeno uno! Ora potrebbe aiutarmi e portare da mangiare a suo padre in bottega!» «Mamma, non piangete, ci sono ancora io!» Era uno dei ceci, cioè dei figlioletti, che si era nascosto dietro una bottiglia e si era salvato dalla strage. La donna fu tutta felice. «Oh, caro, vieni fuori! Come ti chiami?» «Cecino!» «Bravo il mio Cecino! Ora devi andare in bottega a portare da mangiare a papà!» Preparò il paniere e lo mise in testa a Cecino. Cecino cominciò ad andare e sembrava come se il paniere camminasse da solo. Domandò la strada ad un paio di persone e tutti si spaventavano perché credevano che fosse un paniere che parlava. Così arrivò alla bottega e chiamò. «Papà! Papà! Ti porto da mangiare!» Suo padre pensò, «Chi è che mi chiama? Io non ho figli!» Uscì e vide il paniere, e da sotto il paniere veniva una vocina. «Papà, alzi il paniere e mi vedrai! Sono tuo figlio Cecino! Sono nato stamattina!» L'alzò e vide Cecino. «Bravo Cecino!» disse il padre che faceva lo stagnino. «Ora verrai con me, che devo fare un giro per le case dei contadini per sentire se hanno qualcosa di rotto da accomodare». Così il padre si mise in tasca Cecino e andarono. Per la strada non facevano che chiacchierare e la gente vedeva l'uomo che pareva parlasse da solo. Sembrava matto. Chiedeva nelle case, «Avete nulla da stagnare?» «Sì, ne avremmo della roba», gli rispondevano. «Ma a voi non la diamo, perché siete matto!» «Come matto? Io non sono matto! Cosa dite? In strada non fate che parlare da solo!» «Ma che solo? Discorrevo con mio figlio!» «E dov'è questo figlio?» «Ce l'ho in tasca!» «Ecco, cosa dicevamo? Siete matto!» «Beh, ve lo farò vedere!» E tirò fuori Cecino a cavallo del suo dito. «Che bel figliolo! Mettetelo a lavorare da noi, che gli facciamo fare la guardia alla vacca!» «Ci staresti, Cecino?» «Io sì!» «E allora ti lascio qui e passerò a riprenderti stasera!» Cecino fu messo a cavallo d'una vacca e pareva che questa fosse sola lì per la campagna. Passarono due ladri e, vista la vacca incustodita, la vollero rubare. Ma Cecino si mise a gridare. «Padrone! Vieni, padrone!» Il contadino arrivò e i ladri gli chiesero, «Buon uomo, da dove viene questa voce?» «Ah, è Cecino! Non lo vedete? È lì, a cavallo della vacca!» I ladri guardarono Cecino e dissero al contadino: «Se ce lo prestate per qualche giorno, vi faremo diventare ricco!» Così il contadino lo lasciò andare con i ladri. Con Cecino in tasca, i ladri andarono alla stalla del re per rubare cavalli. La stalla era chiusa, ma Cecino passò per il buco della serratura. Aprì, andò a slegare i cavalli e corse via con loro nascosto nell'orecchio d'un cavallo. I ladri erano fuori ad aspettarlo. Montarono sui cavalli e galopparono via. Arrivati a casa, dissero a Cecino: «Senti, da tu la biada ai cavalli, perché noi siamo stanchi e vogliamo dormire!» Cecino cominciò a mettere le museruole ai cavalli, ma anche lui aveva sonno e finì per addormentarsi in una museruola. Il cavallo non s'accorse di lui e lo mangiò insieme alla biada. I ladri, non vedendolo più tornare, scesero a cercarlo nella stalla. «Cecino, dove sei?» «Sono qui! Sono in pancia a un cavallo!» «Quale cavallo?» «Questo qui!» I ladri squartarono un cavallo, ma non lo trovarono. «Non è questo! In che cavallo sei?» «In questo!» E i ladri ne squartarono un altro. Così continuarono a squartare un cavallo dopo l'altro, finché non li ebbero ammazzati tutti. Ma Cecino non l'avevano trovato. S'erano stancati e dissero: «L'abbiamo perso! Che peccato! E dire che ci faceva tanto comodo! E per di più, abbiamo perso tutti i cavalli!» Presero le carugne dei cavalli, le buttarono in un prato e andarono a dormire. Passò un lupo affamato. Vide i cavalli squartati e ne fece una scorpacciata. Cecino era ancora là, nascosto nella pancia d'un cavallo, e il lupo lo ingoiò. Così se ne stette nella pancia del lupo. E quando al lupo tornò fame e si avvicinò ad una pecora legata in un campo, Cecino di là dentro si mise a gridare: «Al lupo! Al lupo!» Finché venne il padrone della povera pecora e fece scappare il lupo. Il lupo disse: «Come mai faccio queste voci? Devo avere la pancia piena d'aria!» E cominciò a cercare di buttar fuori l'aria per di dietro. «Beh, adesso non l'avrò più. Andrò a mangiare una bella pecora!» Ma quando fu vicino alla stalla della pecora, Cecino dalla sua pancia incominciò a gridare: «Al lupo! Al lupo!» Finché non si svegliò il padrone della pecora. Il lupo era preoccupato. «Ho ancora quest'aria nella pancia che mi fa fare questi rumori!» E ricominciò a cercare di buttarla fuori. Spara fuori aria. Una volta, due volte. Alla terza saltò fuori anche Cecino e si nascose in un cespuglio. Il lupo, sentendosi liberato, tornò verso le stalle. Passarono tre ladri e si misero a contare i denari rubati. Uno dei ladri cominciò: «Uno, due, tre, quattro, cinque!» E Cecino dal cespuglio gli faceva il verso: «Uno, due, tre, quattro, cinque!» Il ladro disse ai compagni: «State zitti che mi confondete! Chi dice una parola l'ammazzo!» Poi riprese a contare: «Uno, due, tre, quattro, cinque!» E Cecino: «Uno, due, tre, quattro, cinque!» «Mi prendi in giro?» disse il ladro ad uno dei compagni. «Ora t'ammazzo!» E l'ammazza. E all'altro: «Tu, se non vuoi fare la stessa fine, stai attento!» E ricomincia: «Uno, due, tre, quattro, cinque!» E Cecino ripete: «Uno, due, tre, quattro, cinque!» «No, no, non sono io che parlo!» disse l'altro ladro. «Ti giuro, non sono io! Credi di fare lo stupido con me? Io t'ammazzo!» E l'ammazzò. «Ora sono solo», si disse. «Potrò contare i denari in pace e tenerli tutti per me. Uno, due, tre, quattro, cinque!» E Cecino: «Uno, due, tre, quattro, cinque!» Al ladro si rizzarono i capelli sulla testa. «Qui c'è qualcuno nascosto! È meglio che scappi!» Scappò e lasciò lì tutti i denari. Cecino, con il sacco dei denari in testa, se ne andò a casa e bussò. Sua madre aprì e vide solo il sacco di denari. «È Cecino!» disse. Alzò il sacco e sotto c'era suo figlio. E l'abbracciò tutta felice e contenta. Giro di Re. Fiabe e leggende della tradizione popolare italiana.